Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ci siamo. Buonasera a tutti. Benvenuti alle buonanotte di allineamenti. E qui è Gas che vi parla. Come anticipato domenica, iniziamo questo viaggio alla scoperta delle 101 storie zen. Vediamo se riesco a prepararmi ad arrivare abbastanza beato e calmo e pacifico per quando andrò il 25 aprile a Tokyo a cercare di vedere la fioritura, anche se l'avrò persa per poco. La prima storia è molto interessante, si collega un po' a quello che abbiamo... quello che vi ho raccontato settimana scorsa sul chiudete le scuole. Vi ricordate Giovanni Papini? Dicevamo chiudiamo le scuole, chiudiamo questo sapere sempre un po' confezionato, dove diamo tanti insegnamenti ai ragazzi che poi nel corso della loro vita devono dimenticare perché non sono pratici, non sono utili, non sono più giusti, non sono aggiornati. La stessa cosa ci si chiede in questa prima storia zen, che si intitola Una tazza di tè. Nain, un maestro giapponese dell'era Mei, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nain servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè. Poi non riuscì più a contenersi. È ricolma, non c'entra più. Nain allora disse: come questa tazza, tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tazza? Questa è una cosa che mi chiedo sempre, io non so se lo fate anche voi. Come facciamo a cancellare tutte le nostre convinzioni, a liberarci da tutti i pregiudizi? Come facciamo a vuotare il nostro essere, a colmarlo davanti alla persona che abbiamo davanti? Come facciamo a trovare un diamante su una strada fangosa? La storia numero 2. Gudu era l'insegnante dell'imperatore del suo tempo, però viaggiava sempre da solo come un mendicante girovago. Una volta, mentre era in cammino verso Edo, il centro culturale e politico dello shogunato, si trovò nei pressi di un piccolo villaggio chiamato Tantekara. Era sera e pioveva a dirotto. Gudo era bagnato, fradicio. I suoi sandali di paglia erano a pezzi. In una casa colonica vicino al villaggio vide 4-5 paia di sandali sul davanzale e decise di comprarne un paio. La donna che gli vendette i sandali, vedendolo così bagnato, lo invitò a passare la notte lì in casa. Gudo accettò con molti ringraziamenti. Entrò e recitò un sutra davanti al reliquio di famiglia. Poi la donna lo presentò a sua madre e ai suoi figli. Notando che avevano tutti un'aria affitta, Gudo domandò se fosse accaduta una qualche disgrazia. «Mio marito gioca d'azzardo ed è un beone», gli spiegò la padrona di casa. Quando gli capita di vincere si ubriaca e diventa manesco, quando perde si fa prestare i soldi dagli altri. A volte, quando ubriaco fradicio, non rincasa nemmeno. Che posso fare? Lo aiuterò io, disse Gudo. Ecco un po' di denaro. Procurami un gallone di vino buono e qualcosa di stuzzicante da mangiare. Poi andatevene a dormire. Io resterò in meditazione davanti al reliquario. Quando intorno alla mezzanotte il marito della donna rincasò completamente ubriaco, si mise a berciare. «Ehi moglie, io sono a casa, non c'è niente da mangiare!» «Qualcosa ce l'ho io», disse Gudo. «Sono stato sorpreso dalla pioggia e tua moglie mi ha gentilmente invitato a passare qui la notte. Per ringraziarlo ho comprato del pesce e un po' di vino, sicché puoi gustarne anche tu». L'uomo fu tutto contento. Bevve subito il vino e si sdraiò sul pavimento. Gudo rimase in meditazione accanto a lui. Quando il marito si svegliò la mattina dopo, non ricordava più nulla della sera prima. «Chi sei? Di dove vieni?» domandò Gudu, che stava ancora meditando. «Sono Gudu di Kyoto e sto andando a Edo», rispose il maestro Zen. L'uomo provò un'immensa vergogna. Non la finiva più di scusarsi con l'insegnante del suo imperatore. Gudu sorrise. «In questa vita tutto è instabile. La vita è brevissima. Se ti continui a giocare e a bere, non ti resterà il tempo di fare altro e farai soffrire anche la tua famiglia». Fu come se la coscienza del marito si ridestasse da un sogno. «Come mai potrò compensarti di questo meraviglioso ammaestramento? Lascia che ti accompagni e che porti la tua roba per un pezzo di strada». «Come vuoi», acconsentì Gudu. I due si misero in cammino e dopo 3 miglia Gudu disse all'uomo di tornare indietro. «Altre 5 miglia soltanto», lo pregò quello. Continuò a camminare. «Ora puoi tornare indietro», disse Gudu. «Faccio ancora 10 miglia», rispose l'uomo. «Adesso puoi tornare indietro», disse Gudu, quando ebbero percorso altre 10 miglia. «Voglio seguirti per tutto il resto della mia vita», dichiarò l'uomo. In Giappone, gli odierni insegnanti di Zen discendono da un famoso maestro che fu il successore di Gudu. Il suo nome era Mu Nan, l'uomo che non tornò mai indietro. E ora vi lascio con una canzone dei Gorillaz che fa sentire bene. Thank you. shovel dick. E chiudiamo con la storia numero 59, soldati dell'umanità. Una volta una divisione dell'esercito giapponese era impegnata in un'esercitazione militare e alcuni ufficiali ritennero indispensabile stabilire il quartier generale nel tempio di Gazan. E Gazan disse al cuoco, servi, agli ufficiali, lo stesso vitto semplice che mangiamo noi. I militari, che erano avvezzi a essere trattati con tutti i riguardi, se ne risentirono. Uno di loro andò da Gazan e gli disse: ma chi ti credi che noi siamo? Noi siamo soldati pronti a sacrificare la nostra vita per il nostro paese. Perché allora non ci tratti come è giusto? Gazan rispose duramente: e tu? Chi ti credi che noi siamo? Noi siamo i soldati dell'umanità, votati a salvare tutti gli esseri senzienti. E con questo ultimo messaggio vi auguro una buonissima notte qui da Ciao Radio Como e dalle buonanotte di Allineamenti. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.